2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 31 ottobre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata, la nostra prossima ora, sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. O se addirittura non volete transitare dal nostro sito internet, beh, c'è una possibilità molto interessante, quella di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione in maniera automatica con software particolari come iTunes, oppure come ci hanno suggerito alcuni ascoltatori nelle ultime settimane, giustamente lo ricordiamo molto volentieri, iTunes, che è un software nato per Linux ma che è disponibile anche per Windows. Quindi sicuramente interessante, visto che poi è gratis, fate la prova e utilizzate iTunes, che fa un po' il verso all'iTunes della Apple. Questa settimana internet ha compiuto, pensate, 40 anni. Il 29 ottobre del 1969, tra l'altro era un sabato, quindi potremmo dire esattamente più o meno, insomma, esattamente 40 anni fa, venivano collegati i primi due computer alla rete che poi sarebbe diventata Internet. Nasceva una rete chiamata ARPANET, un network di computer militari che prendeva il nome dall'Agenzia per la Ricerca dell'Esercito, l'ARPA, appunto, che poi è stata ribattezzata nel 1972 in DARPA. Cambiato nome, ricambiato nel corso degli anni, oggi continua a chiamarsi DARPA, l'Agenzia per la Difesa, l'Agenzia per la Ricerca dell'Esercito americano. Internet e il GPS sono due tra le più grandi rivoluzioni degli ultimi anni che l'esercito degli Stati Uniti ha sviluppato, ha pagato e poi ha donato all'umanità, potremmo dire così. Insomma, sicuramente un'evoluzione molto interessante per tutti i cittadini del mondo. E a 40 anni dalla nascita della grande rete mondiale, gli Stati Uniti hanno fatto un nuovo passo in avanti perché apriranno alla comunità internazionale le porte dell'ICANN, ovvero la guida dell'organismo che governa la rete e assegna i nomi a dominio, che verrà estesa a tutti gli stati del mondo, e questo ha già avuto un primo risultato rivoluzionario. Pensate che i vertici dell'ICANN, che sono riuniti in questi giorni a Seul, hanno deciso che gli indirizzi che identificano un sito internet, come ad esempio www.radio24.it, potranno essere scritti anche in caratteri diversi da quelli latini, come quelli dell'alfabeto arabo, coreano, giapponese, greco, hindi e cirillico. Quindi sicuramente una rivoluzione. E secondo l'ICANN, circa la metà degli 1,6 miliardi di utenti di internet nel mondo utilizza una lingua scritta in un alfabeto diverso dal nostro. In prima fila ci sono gli oltre 300 milioni di navigatori cinesi che potrebbero essere i primi ad utilizzare questa novità. Quindi ci saranno presto, ci sono già, ma oggi la cosa è un po' macchinosa, bisogna usare software particolare, ci saranno tra poco indirizzi scritti proprio con i caratteri della lingua cinese o comunque delle altre lingue. 40 anni fa, quando internet cominciava a respirare, l'email non esisteva perché venne introdotta circa 2 anni dopo, quindi 38 anni fa. Oggi pensate che l'applicazione più utilizzata, e anche in Italia i numeri sono incredibili, come ci dice Massimo Fubini, che è fondatore di Contact Lab, che è una società specializzata in posta elettronica, che in settimana ha presentato una serie di dati proprio sull'utilizzo della posta elettronica. Sono dei numeri abbastanza impressionanti, si parla di diverse centinaia di milioni di messaggi al giorno. Per quello che riguarda la sola Italia, oramai sono quasi 500 milioni di mail ogni giorno. Avete contato anche la posta in mobilità, che seppur con numeri ancora piccoli sta crescendo con trend molto interessanti. È un fenomeno europeo, ma soprattutto tipicamente italiano. L'Italia è il paese dei cellulari, non è il paese, diciamo, della connettività, questo a guardare i tassi di penetrazione di internet. In Italia c'è una penetrazione di internet che è sotto il 50%, molto simile a quella della Spagna, e altri paesi come la Francia, la Germania o l'Inghilterra invece si attestano a dei tassi nettamente più alti che sfiorano e talvolta superano anche il 70%. Quindi partiamo da un punto di vista di collegamento in generale da una posizione sicuramente svantaggiata, ma svettiamo, siamo assolutamente i primi in termini invece di penetrazione del cellulare. Questo ha fatto sì che con le nuove generazioni di cellulari, quindi l'iPhone, ma anche ovviamente tutti gli altri, l'accesso alla posta elettronica in mobilità è un fenomeno che si è sviluppato soprattutto in maniera preponderante in Italia. Adesso ci sono circa 4 milioni di italiani che usano i dispositivi mobili, quindi i telefoni cellulari, per connettersi e guardare la propria posta elettronica. Un altro dato molto interessante e per certi versi sorprendente per chi non è un addetto ai lavori riguarda lo spam. In questa analisi non viene considerato lo spam, cioè questi numeri che abbiamo citato poco fa riguardano solo le email, quelle regolari, chiamiamole così. Quanto pesa lo spam? Lo spam è un fenomeno incredibilmente elevato che passa in buona parte sotterraneo, ovvero lo spam non è solamente la mail indesiderata che un utente si trova all'interno della propria casella oppure nella cartellina dello spam all'interno della propria casella. Quello è, come dire, lo spam che viene effettivamente percepito, però ce n'è una quantità invece che viene bloccato prima di raggiungere nella casella. Allora, mentre ciascuno di voi saprà bene che lo spam che si ritrova in casella è in funzione della bontà del software di antispam che utilizza, può essere il 5%, il 10%, il 20%, l'1% dei propri messaggi, quindi fatti 100 i messaggi ricevuti, uno magari può averne 2, 3, 5, 10 o 20. In realtà la cosa realmente interessante è sapere quanti sono i messaggi che circolano realmente, e pochi hanno un'idea abbastanza definita di questo tipo di fenomeno, perché i messaggi che arrivano in casella sono circa il 10% di quelli che arrivano al server. Questo significa che nella vostra casella vengono recapitate 10 email e magari tra queste c'è anche qualche mail indesiderata, in realtà quelle che sono transitate per la rete sono 100, 10 volte tanto. Nonostante i sistemi anti-spam funzionino sempre meglio e continuino ad evolversi e a diventare sempre più precisi per intercettare lo spam, questa rimane una delle grandi piaghe della rete, anche perché dietro allo spam si cela un'industria spesso illegale, quindi di posta elettronica inviata in maniera illegale, rubando indirizzi di posta elettronica. A volte all'interno dello spam si confonde anche il phishing, cioè quelle email che servono per rubare o tentare di rubare credenziali d'accesso magari a siti bancari. A proposito di spam, questa settimana arriva una notizia interessante dagli Stati Uniti, una notizia che ha fatto il giro del mondo soprattutto per la cifra record del risarcimento. Stiamo parlando di 711 milioni di dollari che andranno a Facebook. Il personaggio che è stato pizzicato, tra l'altro è la terza volta, quindi insomma il vizio rimane, Sanford Wallace, che di mestiere fa l'esperto di marketing su internet, è però soprannominato Spamford, perché si è fatto una carriera nel mondo dello spam e a questo punto se la sta facendo anche nelle aule di tribunale. È stato querelato da Facebook, dal social network più famoso del mondo, per aver effettuato accessi non autorizzati agli account di molti iscritti che poi Sanford utilizzava per inviare falsi messaggi a scopo pubblicitario. Nessuno sa quanto questo esperto di spam abbia guadagnato in questi anni, di certo la cosa certa sono invece le richieste di risarcimento che si avvicinano, pensate, al miliardo di dollari, perché a quella di Facebook vanno aggiunti 230 milioni chiesti nel 2008 da MySpace. Anche in Italia la legge punisce l'invio non richiesto di messaggi, ma al momento non sono state registrate condanne pari a quelle americane, ammesso poi che i messaggi siano inviati dal nostro paese. Tra le novità di questa settimana ci sono alcune notizie che arrivano sempre dagli Stati Uniti, ma che riguardano il mondo della telefonia mobile, novità che per il momento riguardano solo l'America, ma che sono interessanti perché potremmo dire tracciano un trend che vede il sistema operativo sempre più importante per gli smartphone e anche al centro di una battaglia globale tra produttori di telefoni e produttori di software e servizi in rete. Saluto il nostro esperto di mobilità, Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. Massimo, bentornato a 2024. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Notizie che arrivano dagli Stati Uniti e riguardano Android. Dicevo che oramai i sistemi operativi stanno diventando sempre più importanti nel mondo della telefonia mobile, con tutta una serie di vantaggi, di quello abbiamo parlato e parleremo anche oggi. Però permettimi di dire anche qualche problema, non ultimo il fatto che il telefono, una volta ce lo dimenticavamo e non dovevamo più farci nulla, ce lo usavamo per telefonare, oggi invece dobbiamo preoccuparci addirittura di aggiornarlo anche con una certa frequenza. Tant'è che sta arrivando una nuova versione di Android. Comunque in generale questi telefoni vanno aggiornati. Sì, soprattutto gli smartphone sono sempre più computer e meno telefoni nelle modalità di funzionamento e quindi come computer vanno aggiornati. Va aggiornata la sicurezza, ma vanno anche aggiornati i cosiddetti firmware, che sono poi le nuove versioni del sistema operativo che di solito chiudono falle del sistema operativo precedente e invece danno la possibilità di accedere a nuove funzioni. Penso ci dovremmo abituare, probabilmente in futuro tutto questo sarà sempre più semplice. Oggi dobbiamo ancora collegare il telefonino col cavetto, computer, insomma chi è meno informatico stenta un po' a fare queste operazioni, ma già abbiamo compiuto molti passi avanti in tema di facilità. Sì, diciamo che per alcuni versi può essere anche considerata una scocciatura quella dell'aggiornamento, perché il sistema ti dice guarda che c'è un aggiornamento, vuoi aggiornare eccetera eccetera, poi perdi quarto d'ora, mezz'ora per fare l'aggiornamento. Per i più smanettoni è diventato un divertimento. Ah sì, il certo. Divertimento di vedere che cosa la nuova funzione aggiunge sul telefonino. A proposito di nuove funzionalità e soprattutto di un aggiornamento importante, da qualche settimana diciamo che Android è uno dei sistemi operativi che si stanno affermando. Questo è un sistema operativo che è sponsorizzato fortemente da Google, poi all'interno dell'offerta Android ci sono altri operatori. C'è Android 2.0 negli Stati Uniti. Non ci sono grandissime novità, ma alcune sono interessanti. Ma direi che forse le novità principali sono per la parte degli sviluppatori. Poi per il consumatore finale ci sono delle piccole funzioni piccole ma comunque anche importanti che si accendono sul telefonino. Ne diciamo qualcuna, la possibilità ad esempio di gestire più account Gmail. Una cosa secondo me molto molto importante che ha dato fastidio a tanti utenti sulla prima versione, cioè il Bluetooth funzionava solo con le cuffiette audio, quindi per parlare con una cuffietta senza fili non passava i cosiddetti dati, quindi non era possibile passare un brano musicale, non era possibile passare una foto. Oggi il Bluetooth darà la possibilità di trasmettere file, dati anche. Sì, una cosa che vorrei dire a tal proposito, ma che vi dico tra poco, riguarda i sistemi operativi, quelli che sono nati negli ultimi anni, ne parliamo tra circa un minuto. Stiamo parlando di sistemi operativi per smartphone, un nuovo terreno di battaglia, lo diciamo da oramai da anni, ma in questi ultimi tempi stiamo vedendo veramente come si sta svolgendo questa vera e propria battaglia, questa competizione molto forte. Due sono i sistemi operativi che abbiamo visto nascere negli ultimi anni, ovvero quello di Apple che esiste e gira solo sull'iPhone, mentre Android, il sistema operativo sponsorizzato sviluppato prevalentemente da Google, gira su una serie di telefoni che abbiamo già visto uscire ma che vedremo uscire anche nelle prossime settimane. La cosa interessante da sottolineare è che l'altro sistema operativo che ha la maggior parte del mercato, più del 40-45% del mercato secondo le ricerche, è Symbian di Nokia. Dicevo, una delle cose che si criticano spesso di questi sistemi operativi è che su alcune funzioni di base, prevalentemente spesso quelle più legate all'utilizzo del telefono, quindi la parte telefonica di questi smartphone, hanno avuto o hanno ancora delle pecche piuttosto ingombranti e piuttosto rilevanti. Massimo, non è così? È vero, soprattutto quello di cui stiamo parlando, cioè di un sistema operativo touchscreen, sì. Android come l'iPhone, farà sorridere qualcuno il fatto che solo oggi, ad esempio, viene introdotta la compatibilità con i flash per le fotocamere. Prima questa non c'era. Abbiamo visto l'iPhone ci ha messo qualche release per avere finalmente la possibilità di girare video, cose che, come hai detto bene, si danno scontate su telefoni con sistemi operativi più vecchi e anche consolidati, più soldi, consolidati. Invece insomma è tutto in divenire su questi nuovi OS. Certo, poi magari Symbian è rimasto indietro per altre cose, poi vedremo l'evoluzione anche di questo segmento. Tra l'altro, lo abbiamo già detto ma è bene ribadirlo, tra poco uscirà un nuovo prodotto di Nokia che non abbandona Symbian ma comunque sta sviluppando pesantemente Linux, giusto? Esattamente, beh, dovrebbe arrivare sicuramente, sarà il prodotto di Natale, quindi dovrebbe arrivare per la fine di novembre. Ti dico solo ancora una cosa velocemente su una nuova implementazione del nuovo Android, ed è la possibilità di avere tutto in un contatto, quello che insomma tutti cercano un po' di fare. Quindi tu avrai un nome, avrai la rubrica, avrai la mail di questa persona o più mail se hai registrato più mail, avrai la possibilità direttamente di contattarlo, quindi di chiamarlo, di vedere addirittura sulla mappa dov'è in quel momento. Quindi con quel contatto tu avrai, diciamo, tutta la possibilità di conoscere tutto della quella persona. Che è registrata. A proposito di mappe, quindi questa è un'integrazione che Google e il sistema operativo di Google sugli smartphone, cioè Android, permette di fare con il loro servizio che si chiama Latitude. Però a proposito di mappe, un'altra grande novità della settimana è stato l'annuncio di Google che per la prima volta promette di dare gratis la funzionalità di navigazione. Allora, sappiamo che molti operatori forniscono gratuitamente le mappe, ormai queste potremmo considerare una cosiddetta commodity, però per la prima volta, cioè, mi pare che non ci siano altri che offrono gratuitamente la funzione di navigazione, cioè con la signorina che dice gira a destra, gira a sinistra. Esatto, questa è la vera novità, perché di solito le versioni base sono semplicemente quelle per cui chi guida deve o chi si muove anche a piedi deve comunque guardare il display e leggere un po' le frecce di direzione. Sì. Qui c'è una voce che ti dice cosa fare e dove andare di più, perché innanzitutto è gratis. Di solito le versioni premium sono sempre fornite a pochi dollari o a pochi euro, qui invece c'è la totale gratuità. Per il momento il sistema viene lanciato solamente in America, ma possiamo dire, penso con una certa sicurezza, che è solo il primo step di lancio, poi potremo avere anche in Europa questo sistema di navigazione. Ma poi c'è anche una interessante interazione con la voce, quindi si può arrivare a destinazione con la voce, si può chiedere un punto di interesse tipo la pompa di benzina più vicina, insomma, e tutto quello che risiede già sulla mappa può essere chiamato vocalmente. A proposito di novità della settimana, abbiamo detto che Android, il sistema operativo, arriva alla versione 2.0 per gli Stati Uniti e contemporaneamente arriva un prodotto nuovo, anche in questo caso solo per gli Stati Uniti, ma va citato perché ci suggerisce una rinascita di un operatore con un grande nome. Arriva un prodotto che si chiama Droid, in questo caso è uno smartphone che è sia touch ma anche la tastiera, con sicuramente l'applauso di molti che amano avere anche la tastiera fisica. Il Droid è un prodotto nuovo di chi, Massimo? È il prodotto del rilancio di Motorola. Uscirà il 6 novembre in America con Verizon, che è il più grande operatore americano, tanto per dare un numero, conta 80 milioni di clienti. Ci si aspetta tantissimo da questo telefono, ci si aspetta tanto perché finalmente Motorola si riaffaccia su questo mercato dopo un anno di grandissima crisi, o forse anche qualcosa più di un anno, perché Verizon ha dichiarato che la campagna pubblicitaria che seguirà e che precede, che seguirà questo telefono, è la più grande in assoluto di tutti i tempi. Incredibile. Perché è il primo Android 2.0 a uscire nel mondo, perché ci sono anche delle qualità tecniche molto interessanti in questo telefono, al di là di quelle che noi siamo dalla fotocamera, insomma tutto quello che noi consideriamo base, ci sono delle cose interessanti, quindi la possibilità anche di registrare video con qualità in DVD, c'è ovviamente la navigazione di Google di cui abbiamo appena parlato, sì. C'è il Google Search con la voce, tante cose interessanti. È un telefono totalmente touchscreen, va detto, con una tastiera che si estrae. È l'ennesimo, almeno così è stato battezzato, anti-iPhone. Sì. Vedremo se poi colpirà nel segno, ma sicuramente le aspettative che circondano questo telefonino sono veramente veramente alte. Speriamo che non vengano deluse. Abbiamo parlato di novità che arrivano dagli Stati Uniti, che presto arriveranno anche nel nostro paese. Non sappiamo di preciso quando, ma comunque sicuramente tra qualche settimana potremo vedere alcuni prodotti Android 2.0, anche perché, Massimo, mi par di capire che dall'Italia o comunque dall'Europa in generale non ci sono grandissime novità di mercato, in un mercato che normalmente offre invece molte notizie. Sì, direi che forse per Natale avremo qualcosa, abbiamo detto stiamo aspettando l'N900 di Nokia, vediamo quando uscirà il Palm Pre, che è un altro telefono molto, molto atteso, che per adesso non è ancora uscito qua in Italia, ma la cosa simpatica, poi se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole andare a vedere il sito di Verizon si divertirà sicuramente, che proprio questo nuovo Motorola viene lanciato come anti-iPhone, non sono solo, prende un po' in giro l'iPhone. Esatto, sì. E quindi anche lo spot pubblicitario fa vedere, no? In pratica l'iPhone è una sorta di campagna comparativa che dice io non posso cambiare la batteria, io non posso fare le foto al buio perché ovviamente non ho il flash, io non posso essere personalizzato, insomma, quindi si gioca, no? con quello che comunque è diventato il punto di riferimento per chi fa telefoni in touch in questo momento. Beh, anche perché visto che la stessa Apple è abituata a prendere in giro soprattutto la Microsoft, esatto, negli ultimi anni per i vari problemi del sistema operativo, in questo caso è stata la Apple a essere sbeffeggiata da Verizon. Ma poi il punto vero sarà come funziona il sistema touchscreen, perché noi ne abbiamo parlato tante quello volte. Un po' il nodo questo è il nodo perché anche qui il Motorola avrà un display da 3,7 pollici, quindi comunque un grande display, molti dei nostri ascoltatori avranno già visto le immagini, ma poi è l'interazione con le nostre dita, con i nostri polpastrelli che farà la differenza. Certo. Altre novità della settimana, mi pare che siano nati due ennesimi application store, uno è Samsung e l'altro è BlackBerry, cioè RIM che produce BlackBerry. Sì, l'app World RIM, ma in generale penso che ormai ogni settimana ne vedremo nascere uno, è sicuramente un business molto importante anche per i produttori e anche per i consumatori, io la trovo una possibilità molto, molto utile, un servizio importante, quindi la possibilità di poter acquistare un'applicazione o anche un video, una canzone direttamente dal telefonino senza dover ricorrere al computer, a password, a siti difficili, quindi si compra un'applicazione direttamente dal telefonino e lì la si installa, si ha la certezza di ovviamente di avere un pagamento sicuro, ma anche la certezza che quell'applicazione funzioni su quel modello. Certo, questa è la cosa importante. Massimo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie, buon lavoro anche a te. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, riprenderemo tra poco e parleremo del decoder unico. Mai sentito parlare del decoder unico? Bene, parleremo tra poco, 2024, vi aspettiamo. Riprendiamo questa puntata di 2024, seguiteci nel pomeriggio del sabato, andiamo in onda tutti i sabati tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online sul nostro sito internet www.radio24.it nelle pagine di 2024, oppure anche attraverso il comodissimo sistema podcast, è possibile abbonarsi gratuitamente via internet. Il podcast, lo ricordiamo, vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Appena disponibile, il sistema scarica sul vostro computer o anche sul vostro telefonino. Ci sono molti ascoltatori che scaricano la nostra puntata direttamente sul proprio smartphone. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, come sempre un ringraziamento ai nostri ascoltatori, quelli che ci seguono via podcast, quelli che lasciano anche messaggi di commento sull'iTunes e quelli che ci scrivono i messaggi di posta elettronica, insomma un po' a tutti. Adesso parliamo di decoder. Da qualche anno questa è una parola che usiamo molto spesso, da quando esiste la TV satellitare, ma soprattutto da quando è iniziata l'accensione delle frequenze del digitale terrestre. Sapete che per vedere i programmi diffusi con questa tecnologia, con un vecchio TV, serve un decoder esterno. Poi ci sono i decoder per la TV via internet, insomma, oramai è una escalation di decoder. Ma dove è finito il famoso decoder unico? Pare che non esista, perché di fatto tutte le offerte commerciali fanno riferimento ad un decoder proprietario dell'azienda che fa quell'offerta commerciale, ma in realtà un decoder unico c'è. Ne parliamo con Gianfranco Giardina, direttore del magazine online dday.it. Gianfranco è anche nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille, bentrovati agli ascoltatori. Noi spesso abbiamo parlato di decoder perché oggi stiamo vivendo un'escalation nei nostri salotti di decoder. Oramai possiamo contare quelli per il digitale terrestre, quelli per il satellite di una piattaforma, cioè che è Sky, quello di un altro satellite che è una nuova piattaforma di cui abbiamo parlato, cioè TVSat, e poi ci sono anche i decoder per le TV via internet. Insomma, assolutamente, ormai è una pila incredibile. E non solo, anche di tutti i decoder, per esempio per una piattaforma sola come il digitale terrestre, esistono poi diverse versioni, diverse modalità, quelli che funzionano solo come zapper per cambiare canale, quelli che permettono anche l'interattività MHP e quindi anche l'accesso ai pagamenti, alle trasmissioni a pagamento, e addirittura adesso quelli compatibili con le trasmissioni in alta definizione di Mediaset, e quindi almeno tre tipi di decoder digitale terrestre. Poi Sky, sappiamo, ha tutta la sua famiglia, grande famiglia di decoder con e senza disk, HD, non HD, eccetera, eccetera, eccetera. Io qualche tempo fa, così parlando davanti a un caffè, ho detto: ma possibile che non esista il decoder unico? E tu hai detto: no, esiste. In un certo qual senso, certo, esiste, è già da qualche tempo sul mercato, e chi l'ha scoperto ne sta traendo grandi soddisfazioni. Allora saluto Claudio Zannoni, che è il presidente di X-Dome, benvenuto. Buongiorno. Voi avete realizzato il famoso decoder unico, dove si possono vedere parecchie cose, non forse tutte quelle che arrivano da satellite e digitale terrestre, poi lo vediamo con calma. Facciamo un passo indietro. Perché voi oggi avete realizzato questo decoder? Perché voi già nel 2002-2003 avevate fatto un decoder che di fatto condensava i programmi di Stream e Telepiù. Esatto. Era basato sulla le piattaforme satellitari di allora. Era basato sulle piattaforme satellitari di allora e al suo interno aveva anche parecchie altre caratteristiche, tra le quali la possibilità appunto di registrare sul disco rigido e addirittura la possibilità poi di masterizzare su DVD quello che si era registrato dal satellite. Poi era il primo esempio di decoder unico utilizzabile tutti i giorni. Beh, era un all-in-one, io lo definirei un all-in-one, quindi più che un decoder unico, perché a quel tempo forse il decoder unico esisteva, cioè c'erano altri decoder indipendenti che permettevano di fruire delle due piattaforme esistenti contemporaneamente. Il nostro andava oltre, condensava al suo interno diversi apparecchi, quindi un ricevitore digitale satellitare, la possibilità di fare il play dei DVD, quindi dei filmati, la possibilità di registrare su disco rigido le trasmissioni, la possibilità poi infine di, se la trasmissione interessava, salvare in maniera molto semplice e user friendly quello che avevo registrato su un supporto DVD. Gianfranco, poi le cose sono cambiate. Noi stiamo parlando di un tempo in cui c'erano due piattaforme satellitari. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni queste due piattaforme si sono unite in un'unica piattaforma che è Sky, poi adesso stanno nascendo altre cose. Che cosa è cambiato anche per quanto riguarda i prodotti hardware, quindi i decoder, con l'arrivo di Sky? Beh, ai tempi di Telepiù e di Stream la pirateria era una diciamo, per le schede satellitari, una grande piaga. Un hobby piuttosto popolare. Popolare, diciamo, certo. E questo era dovuto al fatto che i moduli di crypt e decrypt utilizzati dai gestori dell'epoca erano molto diffusi, molto ben conosciuti e quindi era diciamo forse non così solidi, ed era abbastanza facile per gli hacker aprirli e poi renderli disponibili a un gran numero di persone. E arriva Sky, quindi rileva l'attività di fatto di Stream e Telepiù, le fonde, arriva Sky e dopo pochi mesi annuncia che abbandona i crypting sia di Telepiù che di Stream per passare a un crypting nuovo, quindi assolutamente proprietario praticamente, e per in qualche modo tagliare le gambe completamente a tutti i produttori di decoder di terze parti, perché di colpo Sky avrebbe fornito direttamente tutti i suoi ricevitori, cosa che poi è successo. Oggi, se vogliamo vedere Sky, dobbiamo avere un ricevitore Sky, ieri diciamo, fino a ieri, avere un ricevitore Sky in una delle tante versioni, HD, MySky, eccetera, eccetera, ma comunque una macchina che viene prodotta magari non direttamente a Sky, ma per conto di Sky, da alcuni produttori selezionati e distribuita da Sky. Quindi il motivo principale è che per combattere la pirateria bisognava fare una macchina sulla quale c'era un controllo piuttosto forte. Assolutamente chiusa, operazione devo dire riuscita, perché effettivamente quel tipo di fenomeno è andato completamente sparito. Zannoni, voi avete lottato un po' prima di riuscire a fare la macchina di cui vogliamo parlare oggi, che è potremmo dire il decoder unico, che si chiama X-Dome. X-Dome, sì. X-Dome. Poi diciamo anche quanto costa, le caratteristiche, però molto brevemente ci racconti i 3-4 anni che ci sono voluti per convincere Sky a fornirvi la tecnologia, perché abbiamo detto Sky appunto si è presentato e ha detto facciamo tutto noi per controllare il fenomeno della pirateria. Beh, noi all'inizio del 2004 abbiamo fatto richiesta ufficiale di ottenere la licenza della parte di criptazione di Sky, che è di proprietà di un'azienda che si chiama NDS, un'azienda che è principalmente basata in Israele, quindi una società specializzata nella sicurezza, e da allora è partita una querelle che si è trascinata circa 4 anni di fronte ad Agicom e che si è conclusa positivamente nel, diciamo, all'inizio del 2008 con il raggiungimento di un accordo sempre con l'aiuto di Agicom tra X-Dome e Sky Italia. Quindi siete andati all'autorità per le comunicazioni e dopo un lungo braccio di ferro vi siete messi d'accordo messi e Sky d'accordo. Vi ha concesso. Abbiamo raggiunto un accordo. Esatto. Gianfranco, normalmente Sky è piuttosto gelosa di questa tecnologia. No, non normalmente, proprio è assolutamente gelosa. Questo infatti è un caso assolutamente raro e devo dire la verità a cui anche gli osservatori di mercato non pensavano e non speravano. C'è da dire una cosa, Sky alla fine ha ceduto sicuramente sotto le pressioni della G-Com, che aveva evidentemente giusti motivi per spingere una cosa di questo tipo, ma anche perché oramai Sky, con numero di abbonati che ha, quindi più di 4 milioni di abbonati, quindi un gran numero, incomincia a essere, come dire, nel mirino anche dell'autorità antitrust per alcune attività, come per esempio il fatto di essere assolutamente di aver chiuso le porte, ci si è accorti un po' tardi, ma chiuso le porte a tutte le aziende, ma parlo di anche grandi nomi, parlo di Nokia, parlo di che praticamente facevano decoder nell'era pre-Sky e di colpo hanno dovuto, quantomeno per l'Italia, chiudere completamente quel tipo di canale. Per esempio in Germania tutti gli operatori pay in realtà non producono i propri decoder, ma li fanno produrre alle terze parti, ovviamente, quindi in un'ottica più aperta. Il fatto di avere oggi un decoder non Sky che permette di ricevere Sky per l'azienda è anche un po' un salvacondotto nei confronti di qualsiasi critica che arrivasse adesso, come è arrivata un po' negli ultimi anni, sul fronte di questa chiusura totale del ricevitore. Sì. Adesso ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco, vi aspettiamo. Oggi 2024 stiamo parlando del famoso decoder unico che in realtà esiste. Ne stiamo parlando con Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio e video digitale, direttore del magazine online dday.it. Tra l'altro su dday.it trovate proprio la recensione e anche le fotografie dell'X-Dome, questo prodotto di cui stiamo parlando. E ne stiamo parlando anche con Claudio Zannoni, che è il presidente di X-Dome, l'azienda italiana che lo produce. Zannoni, che cosa posso vedere con questo prodotto? Beh, principalmente naturalmente la programmazione Sky, essendo nativo per Sky. E uno potrebbe dire, beh, me lo dà già Sky, quindi potrei anche non comprare il vostro, fa qualcosa in più. Certo, permette naturalmente, essendo dotato, oltre che del tuner satellitare, anche del tuner digitale terrestre, intanto di accedere a tutto quello che è la programmazione digitale terrestre. In più, tramite la presenza di uno slot, di un connettore, che in gergo si chiama common interface, è possibile poi utilizzare altri moduli di accesso condizionato per avere accesso a tutte quelle che sono le piattaforme attualmente disponibili. A pagamento o comunque criptate. Criptate, certo. Vedi TVSAT. Ecco, poi parliamo anche di TVSAT. Si possono vedere, mi sembra questo un po' la cosa interessante, tutti i canali satellitari, anche quelli che sono fuori dall'offerta di Sky. Sì, in maniera anche molto semplice, perché il line-up, cioè la lista dei canali, è facilmente configurabile. Il prodotto è in grado di pilotare anche un'antenna motorizzata. Ci sono tantissimi appassionati che vogliono vedere, non so, un satellite russo piuttosto che un satellite che sta sull'Atlantico, no? In quel caso lì ci vogliono parabole gigantesche, quindi diventano... Vabbè, non pochi, però pochi. Insomma, si possono fare anche queste cose. Gianfranco, dicevo, la cosa interessante è proprio questa apertura totale, perché uno potrebbe dire, beh, con Sky adesso, tra l'altro un annuncio di qualche giorno fa, potrò vedere anche i canali del digitale terrestre, quindi potrò vedere i canali di Sky, i canali del digitale terrestre, che cos'altro? Ma il grande vantaggio che non va assolutamente sottovalutato è quello della lista canali personalizzabile, che sembra una banalità, non lo è affatto. Per la prima volta l'utente Sky può scegliere dove, su che numero, su che numerazione posizionare i propri canali, quali selezionare, farsi le sue liste di canali preferiti e soprattutto miscelare questi canali con quelli che Sky numera magari nei numeri alti, diciamo così, in fondo, o non numera affatto. Ecco, questo è il punto. Fino a ieri Sky poteva decidere quali erano i canali visibili di fatto, e quindi anche per tutti gli operatori di TV gratuita, diciamo così, che vivono solo di pubblicità, il fatto di essere numerati da Sky voleva dire esistere. Non essere numerati da Sky significa non esistere. Quindi non essere appetibili sul punto di vista del mercato pubblicitario. Oggi invece è l'utente, finalmente, come è giusto che sia peraltro, che sceglie, si può affidare ovviamente alla numerazione standard, o se no sceglie assolutamente dove posizionare e quali canali posizionare nella sua lista canali. Poi naturalmente in un dibattito molto più aperto e legato a internet si parla ultimamente molto di neutralità, sicuramente l'idea di Sky non è neutrale, perché l'offerta te la fa Sky e ti presenta una lista di canali, e non solo la lista, proprio i canali che tu puoi vedere nella piattaforma. Andare oltre significa anche essere molto più neutrali. Senta Zannoni, registra questo prodotto? No, non ancora, ci sarà una versione che voi vorreste il prodotto, certo, potesse registrare, evolvere, certo. Però Sky non vuole. No, è che questo è stato il primo prodotto per partire, e ottenere un prodotto che registra diventa ancora più complicato, perché ci sono dei problemi proprio di sicurezza, per cui ci deve essere un controllo totale della registrazione. Alcune registrazioni non possono rimanere sull'hard disk più di 24 ore, sì. Quindi produrre un decoder compatibile con queste richieste non è così semplice, quindi ci stiamo lavorando alla versione. Senta, può sembrare banale la domanda, esiste sul mercato, cioè si trova facilmente questo prodotto, lo devo richiedere? No, esiste su tutte le principali catene, le più famose, non credo di poter dire il nome, comunque, però sono le più famose catene. Le grandi catene di distribuzione di elettronica di consumo, da quanto tempo lo vendete? Dagli inizi di aprile. Quindi insomma un prodotto abbastanza giovane. Gianfranco, TVSAT, ricordiamo brevemente di che cosa stiamo parlando e poi parliamo anche. Allora, TVSAT è la nuova piattaforma satellitare lanciata fondamentalmente da Rai Mediaset, con anche la collaborazione di Telecom Italia Media, quindi la 7, per in teoria, cioè, diciamo ufficialmente, gli annunci ufficiali, nasce per diffondere il segnale del digitale terrestre in quelle aree, diciamo, sfavorite dal l'andamento orografico del territorio, quindi dalla distribuzione del segnale terrestre, invece via satellite chiaramente a pioggia arriva dappertutto, basta avere una parabola per ricevere anche laddove il segnale digitale terrestre è scadente. Questo è un'operazione ufficialmente quindi di garanzia per tutti quegli utenti sfavoriti che con lo spegnimento dell'analogico devono pur vedere il servizio televisivo gratuito, e sicuramente è una nuova piattaforma con un nuovo sistema, non nuovo, diciamo un sistema diverso di crypting rispetto a Sky. È criptato, ci vuole una card, la card doveva essere distribuita in un primo momento, sembrava, a tutti i possessori, a tutti diciamo, gli utenti in regola col pagamento del canone. In realtà la scelta distributiva, almeno in questa fase, è stata quella di inserire una card nelle confezioni di tutti i ricevitori TV-SAT compatibili. E quindi in questo momento così è, chiunque può comprare un ricevitore TV-SAT in negozio e trova all'interno della confezione la card che permette di decrittare i programmi. I programmi sono comunque quelli che normalmente si trovano a diffusione nazionale sulla piattaforma digitale terrestre. Benissimo. Voci di mercato dicono che questa sia un'idea di Mediaset per costruire una piattaforma satellitare a pagamento alternativa a Sky. Noi riferiamo le voci di mercato, poi vedremo che cosa succederà. Quantomeno per prepararsi a farlo, sì, visto che ci vuole, sì. Prima di avere una piattaforma a pagamento appetibile, ci vuole un certo quantitativo di, come dire, di utenti e quindi e anche di contenuti, di utenti installati. Quindi poi vedremo, insomma, se questo poi verrà confermato. Zanoni, sì. Posso utilizzare il vostro decoder anche per vedere i programmi di TV SAT? Sì, è sufficiente avere la smart card. E come si fa? Se è vero che la smart card viene diffusa con un decoder e legata a quel decoder. Aspettiamo che la promessa di darlo a tutti gli abbonati quasi gratuitamente, cioè al costo di 6 euro, venga rispettata. Una volta ottenuta la smart card in questa maniera, basta acquistare un modulo di accesso condizionato che è lo stesso che si utilizza per il digitale terrestre sul nostro decoder e infilare la smart card e ti usate. Noi abbiamo già mostrato al pubblico che si può fare. Che si può fare. Senta, quando uno vuole abbonarsi a Sky e non vuole il decoder di Sky perché dice io ho già l'X-Dome, tutto funziona o comunque Sky invia il proprio decoder? No, può anche decidere di non... L'utente è libero di ricevere il decoder di Sky piuttosto che no. Volevo aggiungere una cosa veloce sul decoder. Il nostro decoder è anche HD in alta definizione. Chi acquista il nostro decoder ed è già un abbonato Sky riceve anche uno sconto, cioè riceve l'attivazione gratuita da parte di Sky di tutto quello che è il segnale HD loro. Quindi, insomma. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi, anche Claudio Zannoni, presidente di X-Dome. Questa tra l'altro non è solo una idea interessante, è anche una storia interessante di un'azienda italiana, quindi anche se utilizza chip magari che arrivano da Israele, però... Per forza. Bene, grazie, a presto. Grazie a lei, arrivederci. Ciao Gianfranco. Ciao, grazie mille, alla prossima volta. E anche per questa settimana abbiamo concluso, vi aspettiamo su internet www.radio24.it, c'è la possibilità di riascoltare e di scaricare la nostra puntata in formato MP3. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.